L'altro pianeta di Laura Bettini. Buonasera, ben ritrovati a una nuova puntata dell'Altro Pianeta. Abbiamo con noi un gradito ospite questa sera. Per presentarvelo facciamo un tuffo nel passato, però, a quando questa trasmissione si chiamava ancora Respiro ed era in onda il 24 gennaio 2009. Sentiamo. Ora passiamo all'ultimo ospite della giornata. Restiamo sempre in tema di esercizi commerciali sostenibili. Basterà il nome per capire di che cosa stiamo parlando. Il nome è Eco Grill e il nostro ospite è l'architetto Giulio Ceppi di Total Tool. Buongiorno. Buon pomeriggio, grazie. Che cos'è Total Tool? Total Tool è una società di progettazione a 360 gradi, dal design all'architettura alla comunicazione, che si occupa tendenzialmente di progetti innovativi. E l'Eco Grill ovviamente appartiene a questa serie di progetti innovativi. È stato appena inaugurato, l'Eco Grill è in provincia di Ravenna, però lascio a lei il compito di descrivercelo. Esatto, l'Eco Grill è una nuova realizzazione, è un fuori autostrada, come viene definito da Autogrill, su una camionabile importante che collega Ravenna a Roma, ed è un esperimento nella direzione della sostenibilità, perché sia per logica costruttiva che per soluzioni impiantistiche mette insieme un pacchetto di innovazioni di assoluto rilievo, soprattutto ragionando nei confronti di una società come Autogrill, che poi è legata indubbiamente a grandi numeri e a una diffusione molto alta sul territorio italiano. Giulio Ceppi, quindi architetto, designer, docente al Politecnico di Milano, fondatore dello studio Total Tool, l'abbiamo appena sentito, bentornato quindi. Grazie. Nel frattempo l'Autogrill di Ravenna, di cui abbiamo parlato in questa intervista del 2009, ha portato i suoi frutti, i suoi primi frutti. Ho letto anche alcuni dati, tra cui un taglio delle emissioni di CO2 del 35%, risparmi di acqua, risparmi di energia, e tra l'altro ha avuto anche un fratellino, diciamo così, no? Quindi adesso abbiamo anche un altro Ecogrill, che è quello di Villoresi Est. Ci dia un po' un'idea di quello che è Villoresi Est. Sì, direi che se l'esperimento di mensa ha funzionato, adesso a Villoresi abbiamo l'occasione di passare da un fattore 30 a un fattore 50 di risparmio, con un edificio però 10 volte più grande, quindi molto più difficile, e su un'autostrada che ha 30 milioni di veicoli l'anno, e quindi un grande passaggio e un grande numero di persone che lo visiteranno. Quindi di sicuro una palestra, anche questa molto importante, dove abbiamo ripreso alcune cose di Ravenna, come la geotermia, quindi lo sfruttamento del calore e dell'inerzia data dal terreno, però abbiamo aggiunto un tetto, là era verde, qui invece è captante, è un tetto intelligente. È un grosso comignolo, per chi ha visto magari qualche foto. È un grosso comignolo, esatto. Sì, mentre quello di Villoresi è un prato verde. È un prato verde perché siamo anche in piena campagna. Certo. A Villoresi siamo alle porte di Milano, c'era la campagna, ma ormai c'è un paesaggio esatto, industriale, però abbiamo comunque una situazione interessante, perché combinare la geotermia con invece l'irraggiamento solare e quindi delle canaline d'acqua che girano nel tetto e trasportano il caldo sotto e sopra dal terreno, è invece una cosa nuova, inedita, estremamente sperimentale, che ci permette appunto di abbattere i consumi e la produzione di CO2 in maniera davvero drastica. Quindi siete riusciti a prendere alcune delle esperienze già fatte a Ravenna, portarle e trasformarle, coinvolgendo aziende un po' di tutti i campi, ho visto, no? Perché poi ho visto, ci sono, non so, gli specialisti del legno di Pesaro, piuttosto, sì, che, e quindi ciascuno poi ha portato le sue competenze. Penso che questo sia anche un modo di lavorare che dà grandi soddisfazioni, continuare a scoprire qualcosa. Sì, assolutamente sì. E poi, come diceva lei, oggi il lavoro dell'architetto, se vuole essere innovativo, è assolutamente interdisciplinare. Proprio vuol dire mettere persone intorno a un tavolo, farle dialogare tra di loro, essere il gestore di un processo magari a cui a volte non è nota la fine al 100%, ma gli attori che metti intorno al tavolo sono quelli che poi ti aiutano a trovare la soluzione. La fine non è nota al 100%, a volte anche per motivi indipendenti. Sto pensando all'altro grande progetto di cui si è parlato in questi anni, che è il chilometro zero concept, e quindi c'è un concept che avrebbe dovuto portare alla realizzazione di una strada sostenibile, vogliamo chiamarla così, che poi non è andata in porto, ma per tanti altri motivi, non per gli esperti che erano stati riuniti intorno al tavolo, la crisi economica, le difficoltà delle aziende coinvolte e così via. Sono tante variabili che non sono prevedibili. Io dico sempre, scherzando, il progetto è una scienza inesatta, cioè ovviamente bisogna rispettare dei numeri, delle normative, delle tempistiche, però come diceva lei ci sono delle variabili che non si può avere la presunzione di tenere tutte sotto controllo, anche se poi, come qualcuno insegna, a volte dall'errore, dall'imprevisto, dall'eccezione nasce anche la soluzione interessante, perché si impara lavorando insieme e condividendo punti di vista diversi. Questo per l'innovazione è fondamentale. Diciamo due parole su quel chilometro zero: cos'era e cosa doveva e che cosa speriamo sarà in tempi brevi, magari non là dove si pensava, altrove, ma comunque che cosa doveva portare? Ma doveva portare a una infrastruttura stradale in grado di produrre energia, quindi non solo di avere un bilancio dato dal ticketing autostradale, ma anche dal fatto che l'energia rinnovabile porterebbe al gestore della strada un ritorno economico diverso, e questo implicherebbe anche un beneficio per tutti noi, in quanto in qualche modo la strada riduce il suo impatto sul territorio, diventa in grado ad esempio di far crescere finalmente il verde al suo intorno, perché con l'energia uno si può pompare l'acqua per far l'irrigazione, la può recuperare dalle piogge e dalle acque meteoriche. Però, ecco, come dicevo prima, non è facilissimo in un momento come questo portare avanti un progetto così innovativo. Ecco, una cosa di sicuro che ho imparato è che l'innovazione ha dei tempi a volte non lineari e non prevedibili al 100%, quindi stiamo lavorando molto anche fuori dall'Italia, con paesi come la Mongolia, Panama, la Turchia, in cui magari, ecco, con le difficoltà del muoversi un po' da soli, per quanto siamo un gruppo di imprese che si sono coordinate tra di loro, stiamo provando, ecco, a costruire delle occasioni concrete, anche se quello che ho sempre detto è che questo progetto ha un valore concettuale, quindi se vuole fare 100, anche solo facessimo 30, io sarei già contento, perché abbiamo già modificato di molto la realtà. Certo. Essendo un concept, dobbiamo partire con una spinta concettuale molto estrema, molto, molto alta, forte, per poter poi raggiungere comunque un obiettivo di buon livello. Esatto. Ma l'innovazione, specialmente questa che riguarda la sostenibilità e tutto ciò che è maggiore attenzione per l'ambiente, comporterebbe anche minori spese, quindi cose importanti in un periodo di crisi come questo. Assolutamente sì. Perché non si riesce a fare passare questo concetto? Smettiamo di fare il tradizionale che tanto ci ha imbrigliato e passiamo a qualcosa di meglio. Perché vinci in questo momento, e penso di non dire una cosa nuova, la logica del trimestre, cioè se le aziende e chi deve innovare, fare impresa, guarda sempre il trimestre perché ha una grande sfiducia nel futuro o non ha la capacità di avere una visione sul lungo periodo, è difficile che creda anche numericamente e quantitativamente nei vantaggi del sostenibile e delle tecnologie rinnovabili, perché implicano dei payback, dei ritorni di 4, 5, 6, a volte magari anche 7 anni. Ma questa incapacità di credere nel futuro è nostra italiana o anche all'estero, visto che lei lavora in tutto il mondo? Ma mi dispiace dirlo, ma in questo momento la vedo molto come un dramma nazionale, cioè come una nostra incapacità di avere forse quella serenità, indubbiamente quella visione che abbiamo avuto in altri momenti. Però ci sono altri che non vivono momenti sereni, che investono su questo. Sì, di sicuro i paesi emergenti, e anzi hanno anche il vantaggio di poter imparare forse da alcuni errori che abbiamo fatto noi, quindi vedono già la sostenibilità come una condizione necessaria, come un prerequisito, non come un lusso, come forse lo potremmo fare verde perché meglio. No, si fa verde perché si deve fare così, perché hanno già capito quali sono le conseguenze del non farlo verde. Quindi diamoci una svegliata, insomma. Sì, direi di sì. Però, ecco, devo dire, questi edifici villoresi in un momento come questo va dato ad Autogrill, che è un atto di coraggio e di fiducia nel futuro, perché comunque è un edificio che guarda molto lontano, che ha tante innovazioni tecniche e anche di servizio. Abbiamo messo, non so, dei temporary office, dei piccoli uffici per fare le riunioni, dato che è su un crocevia molto importante, Oppure il fatto che sia, ecco, sostenibile anche dal punto di vista sociale, quindi un edificio che ha l'abbattimento totale di qualsiasi barriera architettonica, non c'è più differenziazione, ad esempio, nei servizi sanitari tra chi è portatore di una disabilità e chi no, quindi i servizi sono uguali con i criteri del design for all e accessibili per tutti. Ecco, questo è anche un aspetto molto importante. Sicuramente, sicuramente. Una multinazionale come la Pepsi, le lo dico un nome a caso, visto che è stato portato recentemente, comincia a lavorare, no, con loro. E anche lì c'è un'attenzione alla sostenibilità che lei riscontra e che, diciamo, cambia un po' i modi di lavorare dell'azienda stessa? Beh, di sicuro sì, no? Anche noi dobbiamo affrontare fra un po' questa questione dell'Expo sulle energie per la vita e la questione delle risorse e della filiera, quindi anche una multinazionale come Pepsi si pone di sicuro questi problemi da un punto di vista di sicuro tecnico dell'impatto degli imballi. Però il lavoro che stiamo facendo, curiosamente, è anche su un altro aspetto di sostenibilità, se vuole, ecco, sociale, come dicevo prima. Come prima? Che è il fatto che oggi non ci si può più permettere di essere una grande multinazionale e di avere un atteggiamento, lo definisco un po' così in maniera naif, troppo imperialista, per cui una cosa che funziona negli Stati Uniti e ha successo negli Stati Uniti automaticamente ce l'ha di default in tutto il mondo. Al contrario. Al contrario, cioè la Pepsi, forse più di altri suoi concorrenti, sta imparando a diventare molto, come diciamo, glocal, cioè capace di non perdere i propri valori a livello planetario, la propria mission, quelle che sono le proprie caratteristiche, ma di declinarle in maniera molto forte, molto originaria localmente. Per cui in India il vissuto della Pepsi, i suoi prodotti, addirittura i sapori, oggi poi si parla molto di mixology, no? Cioè di mixare le soft drink con altri prodotti naturali, eccetera, eccetera. L'India, ecco, di sicuro ha un palato, una sensorialità diversa da quella che può essere la nostra. E quindi bisogna tenerlo presente. E quindi stiamo lavorando su questo, che è molto stimolante, perché è la scala planetaria che ripassa però attraverso l'individuo. Giulio Ceppi, grazie per essere stato grazie con noi. Venga a ritrovarci magari un po' prima dei 4 anni. Speriamo. Grazie. Grazie e appuntamento alla prossima settimana. Per scriverci, l'altropianeta@radio24.it.